Radiazione 2 dicembre 2013. Mezz'ora fa è morto l'ennesimo server, l'abbiamo ricambiato e salutiamo quel cornutazzo del maresciallo in caserma. Ricordiamo che oggi la diretta di Radiazione, come ogni lunedì, prevede controinformazione, qualche riflessione e soprattutto la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti. Ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione, radiazione@autistici.org per chi vuole mandare qualsiasi tipo di mail, comunicati, scritti a locandini, opuscoli, iniziative, quello che volete, poi lo decido io se pubblicarlo sul blog o meno. Chiamate censura, chiamatela come cazzo volete. Intanto Radiazione la porta avanti io e decido io cosa portare e cosa postare sul blog. Invece per il blog radiazione.blogs.org, dove potete leggere quasi quotidianamente la controinformazione, ovviamente quando c'è la si rende pubblica, dove potete scaricare opuscoli, libri, manifesti, qualche cd, dove potete riascoltare le dirette d'azione, quelle del lunedì e del venerdì che vanno in onda alle ore 17 attraverso i podcast. Quella di venerdì scorso non è stata resa ancora accessibile perché ci abbiamo avuto da fare un po' di cazzi nostri, quindi senza dare tante motivazioni si renderà, lo possederemo insieme al podcast di oggi, tutto domani, tutti e due i podcast domani. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, ora sono The Wasp, il brano è Blind in Texas e poi dopo si torna qua e si inizia con un racconto. I'll have another one of these. You're dreaming, buddy. What? Oh, my God. Na 013. Si continua. Il corpo dei Tarspok era molto simile a quello umano, anche se erano di dimensioni molto ridotte. Piccoli esseri con un torace e la testa umana, mentre le orecchie, mani e piedi erano quello dei topi. La coda andava a completare la loro struttura fisica. I nemici della popolazione zombie non vivevano solamente nella rete fognaria, chiamata Carcelia, ma anche in edifici costruiti sulla Na 013 e in tutte le altre città del pianeta. Di solito ne costruivano due grandi, in quelli che erano i vecchi centri storici delle città moderne, e altri molto più piccoli, quasi in ogni quartiere. Era il modo per tenere sotto controllo ogni istante la vita, gli usi e le abitudini della popolazione, in modo che a nessuno venisse in mente qualsiasi cosa che non fosse stata dettata dai governanti o dal Papa. Le due grandi torri di guardia nel pieno centro storico di Na 013 erano delle presenze quasi sinistre. Una di esse, in particolare, di sera specialmente, era avvolta in una sorta di nebbia grigiastra che non permetteva di vedere a cosa ci fosse dentro. Una luce blu elettrico di un cartello pubblicitario che si trovava su un tetto di un edificio vicino ne risaltava la sagoma e senza volerlo rendeva quell'edificio un luogo così oscuro che metteva i brividi soltanto a passarci davanti. L'esercito del male portava nelle torri di guardia i sequestrati per avviare una prima schedatura. Essa avveniva attraverso foto, impronte digitali, impronte biometriche, DNA e segni particolari del corpo del sequestrato di turno. A Carcelia, prima di essere rinchiusi nelle nicchie, ai prigionieri veniva fatta una seconda schedatura. Molto spesso il metodo della schedatura veniva attuato per torturare psicologicamente i prigionieri. Infine, una terza schedatura, giusto per chiudere il cerchio e dichiarare malati i sequestrati, avveniva attraverso i media Tarspok. Essi erano l'unica fonte informativa dato in pasto alla popolazione. Attraverso questi organi informativi, governatori, che erano anche fonte di finanziamento, costruivano la morale popolare. Con parole dolci e piene di tutela per la popolazione facevano passare i ribelli come malati di mente da cui stare lontano per non essere infettati dalla nuova peste nera di cui erano portatori. Il terrore di essere portati a Carcelia nel caso si venisse minimamente a contatto con i ribelli e la Chiesa facevano il resto. La nuova tecnologia permetteva a chiunque di calarsi nei panni di un Tarspok. Internet con la banda larga era oramai alla portata di mano per chiunque. Gli smartphone e gli iPhone erano ulteriori mezzi di controllo nelle mani della popolazione che li usava per riprendere a video o scattare foto in qualsiasi momento per poi pubblicarli sui social network e quindi automaticamente metterle a disposizione dei Tarspok. La popolazione zombie non riusciva a capire che una certa tecnologia che era stata messa a loro a disposizione come un passatempo per fare due chiacchiere con amici era un mezzo che la portava a starsene rinchiusa in casa giornate intere e che attraverso essa in realtà i governatori e i Tarspok attuavano il controllo sulle loro non vite. Lo starsene rinchiusa a casa avrebbe dato modo al male di entrare in possesso della città di cui ne avrebbe fatte tante Carcelia, in cui le abitazioni della popolazione morta attraverso l'autoreclusione diventavano delle vere e proprie celle detentive. Ovviamente l'autoreclusione avrebbe evitato, oltre ai finti rapporti sociali attraverso il book mediatico degli oppressori, soprattutto il contatto con i portatori della nuova peste nera, i ribelli. Continuerà la prossima volta, lunedì prossimo. Madonna. Lunedì 2 dicembre 2013 e come ogni lunedì piove, e non solo il governo è ladro, qualcun altro ci vuole male, più in alto o più in basso, non si sa. Ritorniamo nel XVII secolo, ritorniamo alle soglie della Baia di Veracruz, la capitale della nuova Hispania, la capitale piena di ricchezze che i pirati, i filibustieri, i fratelli della costa, con i Jolly Rouge, con i Jolly Rouge e Jolly Roger sui pennoni stanno per assaltare. Eravamo arrivati con i galeoni, con la flotta composita e non marziale alle soglie della città, ma comandati dal cavaliere de Gramont, l'ammiraglio che per questa spedizione la filibusta ha eletto a proprio capo, stanno accerchiando la città e invece che assaltarla dal mare, dove apparentemente la rocca di Veracruz è imprendibile, stanno preparandosi a colpirla alla schiena e quindi stanno sbarcando. La flotta procedeva di conserva a luci spente. Invece, più avanti, Il Nuestra Señora de Consolación e il Nuestra Señora de Regla brua. Non era del tutto notte e il profilo del porto della città di Veracruz, benché distante, si intuiva ancora. Sarebbe scomparso tra breve nell'oscurità di una notte senza luna. Ciò che si vedeva bene era El Santo Espíritu, che galleggiava placido verso i galeoni in avvicinamento, una barchetta spagnola a difesa della città. Aveva a sua volta i fanali accesi solo a metà e la velatura spiegata. Si sentiva tranquillo e sfruttava un venticello carico di profumi vegetali provenienti dalla costa. Sotto l'ombra sempre più cupa delle foreste erano accesi dei falò. «Sono segnali di amicizia e di benvenuto», disse Levert, che sedeva sull'impavesata di babordo, i piedi sul dormiente. Si manteneva in equilibrio aggrappandosi al sartiame. «Cercano con i fuochi di indicarci la via per entrare nello scalo in piena sicurezza senza avvicinarci agli scogli». Macari osservò lo spettacolo che tenebre e luci componevano. «Chi c'è a bordo dei due galeoni che fanno da esca?» «Su uno Adriezon, sull'altro Lorenzillo in persona. De Grammont ha voluto uomini sicuri sulle navi civetta. Il compito è delicato, catturare la goletta sentinella del nemico senza usare armi da fuoco. Sono proibite persino le pistole. Si tratta di tagliare gole il più in fretta possibile, un po' il nostro mestiere di un tempo». Infastidito dal ricordo di un passato che aveva deciso di dimenticare, Macari obiettò: «Il cavaliere pensa solo alla sua gotta, non mi sembra in grado di ordinare proprio nulla». «Ah, lo sottovaluti, gli bastano due parole». Levert inarcò un sopracciglio. «Lo hai visto poco fa, ti sembra che sospetti qualcosa. A che ti riferisci?» «Lo sai meglio di me». Macari inspirò per prendere un attimo di tempo. Non era sua consuetudine mentire. «Non è che sospetta, ne è al corrente». Mise avanti le palme aperte. «Non sono stato io, ci è arrivato per deduzione. È una creatura di un'intelligenza diabolica. Pierbot è stato un ingenuo a volerlo ingannare. Ma rassicurati, di noi non gli importa nulla, nemmeno di eventuali conflitti con la Francia. A lui interessa solo la sorte della sorella, tenuta prigioniera dall'Inquisizione. Ci ha anzi ingaggiati per liberarla, io, te, Big Will e le Skelette». «Dici la verità?» chiese Levert. «Mi conosci», rispose secco Macari. In quel momento si ingaggiò la più straordinaria delle battaglie navali. El Santo Espíritu aveva raggiunto il Nuestra Señora de Consolación e il Nuestra Señora de Regla. Fu schiacciato dalle loro murate con un frastuono cupo. Un istante dopo i fanali dei tre velieri si spensero simultaneamente. La brezza che spirava dal buio portò verso la flotta, ma non verso la costa, frammenti di tragedia. Urla disperate, grida minacciosi, clangori soffocati, suoni sordi di battaglia che si ripercutevano tra i ponti. La Texar irruppe davanti a Macari e Levert. «Cosa fate lì, schiumò? Prendete il fresco, datevi da fare, vanno ripescate gli spagnoli caduti in mare ancora vivi e bisogna sgozzarli dal primo all'ultimo». Poco più tardi i due amici si trovavano su una delle iole che De Grammont usava per gli ospiti di riguardo, spinta a remi da tre schiavi robusti, ingenui che avevano cercato libertà alla tortuga per finire sul mercato di carne umana di Caiona, la capitale dell'isola. Macari e Levert erano impegnati in una pesca singolare. Non appena scorgevano uno spagnolo ferito che nuotava o si teneva a galla aggrappato a un pezzo di legno, gli piombavano sopra e lo colpivano con le lunghe picche dalla punta d'acciaio finché cessava di agitarsi e sprofondava. Ripeterono l'operazione una decina di volte, poi gli spagnoli vivi non se ne scovarono più. Il tutto avvenne con poco rumore. I gemiti, come gli altri suoni, furono portati via dal venticello. «I corpi saranno trascinati dal mare sulla spiaggia», osservò Macari esausto, «ma prima ancora vi arriverà il sangue». Levert era a sua volta affaticato. «Sì, ma lontano dalla città e ci vorrà parecchio. Le onde sono deboli, avremo molto tempo per sbarcare». Tornati a bordo dell'Erdi, videro il Nuestra Señora de Consolación e il Nuestra Señora de Regla riaccendere i fanali, mentre la sagoma del Santo Espíritu rimaneva invisibile. I due galeoni ora inalberavano la bandiera spagnola e si stavano avviando temerariamente verso il porto, sfiorando la mole sinistra di San Juan de Ulua. O avevano compiti di osservazione o volevano approdare a nord della città ingannando i cannoni della fortezza. Da terra, ulteriori falò davano il benvenuto agli invasori scambiati per amici. L'intero equipaggio delle Ardi era in coperta e lo stesso avveniva sul resto della flotta. Tutti trattenevano il fiato in attesa di ordini. Finalmente il cavaliere de Grammont uscì sulla tolda e disse qualcosa a Re Texar, e quindi questi gridò: «Uomini, si sbarca a Punta Gorda davanti a noi! Prepararsi volentieri, dobbiamo andare in fretta! Macari, date gli ordini, le verte alla barra, i gabbieri sui pennoni!» Il ponte del brigantino immerso nelle tenebre fu teatro di un correre frenetico in ogni direzione. Chi scendeva sul corridoio degli alloggiamenti a prendere il sacco e le armi, chi saliva le sartie per trovare sugli alberi il proprio posto. Macari gridò a squarciagola i comandi del caso: «Imbrogliare le gabbie, volentieri! Pronti a mollare la catena, Nostromo, Lesti, su una squadra allargano, in mare la barcaccia e le scialuppe!» Ordini simili risuonavano sugli altri legni, le vele alte furono serrate e si abbassarono i fiocchi. Macari montò a riva con un pugno d'uomini per serrare la contromezzana, passandovi i gerli. Intanto l'ancora sprofondava e barcacciaiole e scialuppe erano alate fuori bordo. Occorse mezz'ora buona, poi decine di imbarcazioni mossero a furia di remi verso terra. Le più grandi avevano a bordo anche cavalli e qualche cane latrante che i bucanieri avevano condotto con loro. Era uno di quei casi in cui il sovrannumero degli equipaggi, tipico delle navi pirata, dimostrava la sua utilità. Macari sbarcò sulla spiaggia sabbiosa, coronata da palme, appena percettibili nel buio, assieme alle verte, a Re Texar e ad altri 5 marinai, più due mozzi costretti ai remi. Si respirava un profumo tonificante che faceva dimenticare il fastidio dei nugoli di zanzare. Mancava la luna, però le stelle erano numerosissime. Sull'arena era acceso un falò, ma chi gli aveva dato fuoco aveva compreso chi stava arrivando ed era sparito per tempo. A giudicare dalle barchette sulla riva e da qualche capanna abbandonata, Punta Gorda era una piccola penisola di pescatori. Subito dopo approdò la barcaccia che trasportava, tra gli altri, il cavalier de Grammont. Questi, benché sorretto da due giovani robusti, ne scese a fatica. Vide Re Texar e zoppicò nella sua direzione. Exkemeling gli andava dietro. «Aspettiamo che quasi tutti siano scesi e che sia sbarcato Van Horn. Ha gettato ancora all'ancora solo adesso. Poi raduno. È indispensabile partire stanotte e raggiungere Veracruz prima dell'alba. Cogliere gli spagnoli mentre dormono. Su, ce la possiamo fare!» «Ammiraglio», obiettò Re Texar, «gli uomini dopo lo sbarco avranno bisogno di riposare. Non hanno dormito né mangiato da ieri notte. Non ce lo possiamo assolutamente permettere. La stanchezza vale anche per me, che non dormo da giorni. Fate solo sapere che o ci si mette in marcia subito o Veracruz non sarà mai nostra e le sue ricchezze non le vedremo più. Non occorre trasportare a riva tutti gli schiavi e gli animali. Da queste parti simili risorse abbondano. Quanto più rapidi siamo e quanto più coraggiosi ci dimostriamo, tanto più aumenteranno le probabilità di mettere le mani su un bottino mai visto prima». Dopo un breve tentennamento, Re Texar finì col dire: «Certo, capitano, renderò chiaro l'alternativo. O gloria o miseria!» De Grammont parve assaporare la frase finale e disse con gusto: «Ecco una bella sintesi! O gloria o miseria! Oh, signore Texar, forza, fatela circolare tra gli equipaggi! Senz'altro, mio capitano, provvedo immediatamente!» Per un'ora lo sbarco proseguì mentre si espandeva il lezzo del sangue trascinato dalle onde, capace di sovrastare i profumi della foresta. Intanto i fuochi lontani si erano spenti. Probabilmente a Veracruz i galeoni erano stati visti passare e dirigersi altrove. Non erano i trasporti delle merci tanto attese. Difficile capire se fossero sorti sospetti. A San Juan de Ulua forse sì, visto che nel fortilizio alcune finestre erano illuminate. Invece la città sembrava addormentata e inconsapevole del rischio che gravava su di lei. Quando circa 1200 uomini armati fino ai denti e una trentina di cavalli scalpitanti furono radunati sulla spiaggia, la breve assemblea ebbe inizio alla luce delle torce. Non fu De Grammont a parlare, si era seduto su un tronco circondato da altri capitani. Fu invece Van Horn, molto amato dagli avventurieri perché somigliava a loro, parlava come loro e coltivava la stessa ferocia a prendere la parola. «Uomini fratelli della costa! Sappiamo tutti che siete spossati, ma l'ammiraglio Michel de Grammont mi ha incaricato di chiedervi uno sforzo ulteriore. Laggiù, vedete, laggiù c'è Veracruz, la città più potente e meglio difesa della Nuova Spagna. Zeppe di denaro, di merci, di donne, di schiavi e di botti di vino pregiato. Se adesso ci mettessimo a dormire non potremo mai agguantare quel ben di Dio. Peggio, daremo modo agli spagnoli di approdare le loro difese e al comandante Diego Fernandez de Saldivar di arrivare qua con la sua flotta, l'armada de Barlovento, e tagliarci la ritirata. Ditemi francamente, Preferite riposare o marciare subito verso la nostra preda? Senza esitazione si alzò il grido unanime: a Veracruz! A Veracruz! Si udirono anche i manipoli dei filibustieri inglesi di Spur, gli arcieri Arawakos e Miskitos, che certo non avevano capito una parola. Fanorno sogghignò: bene, avrei ucciso con le mie mani chi avesse dato segni di vigliaccheria. E adesso in marcia. Lorenzillo, che conosce questa zona come le sue tasche, che in questo momento sta sbarcando a sud, a Punta Los Hornos, ci ha fornito una mappa dettagliata dei sentieri della foresta. I fanti svelti, cavalli al passo, pistole cariche, sciabole in pugno. E un'ultima raccomandazione. La dunata, che già cominciava a sciogliersi per mettersi in moto, trattenne il fiato. Van Horn estrasse dalla cintura un pugnale e lo sollevò, raccogliendo sulla lama affilatissima la luce delle stelle. Lo puntò verso Veracruz. Quelli laggiù non sono uomini. Sono spagnoli, tronfi, crudeli, ipocriti, nemici del libero commercio, ubriachi dell'oro che ci rubano. E allora saremo spietati, li tratteremo da bestia. Quali sono? Nessuna misericordia, me lo giurate? Le torce oscillarono, un lo giuro collettivo rimbombò possente. Poi l'armata della filibusta si mise in movimento. Yeah. E loro erano ZZ Top dopo la prima lettura di Veracruz con il brano Got Me Under Pressure. Ora si passa alla controinformazione, si passa subito con una buona notizia da Buenos Aires, Argentina, dove sono state incendiate due pattuglie della Polizia Federale. Leggiamo direttamente il testo rivendicativo, ricordo non si fa mai un'introduzione ai testi rivendicativi perché spiegano tutto e quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Allora, operai armati pronti a uccidere, forze dell'ordine e della legge, servizi dei potenti, assassini pagati e la Polizia Federale Argentina. La guerra psicologica fa parte della guerra sociale che noi affrontiamo contro ogni autorità, forma di autorità, ma non è quella che scegliamo e promuoviamo. La nostra guerra è fisica, è quella di attacco diretto contro gli oppressori e dei loro averi. Per noi non è sufficiente sapere chi è il nostro amico, il nostro amico è consapevole del fatto che potrebbe essere attaccato, ma che noi sappiamo che attraverso un attacco lo sappia. Anche se il nostro interesse fosse comunque psicologico, pensiamo che questo interesse viene alimentato direttamente da una realtà fisica che si concretizza tramite l'attacco diretto, come abbiamo già detto. Domenica 24 novembre 2013, tra le 1.30 e le 2 di notte, abbiamo attaccato con dispositivi incendiari due pattuglie della Polizia Federale Argentina, una del commissariato 41 e l'altra nel commissariato 27. Forza al compagno Ilya Romanov, imprigionato in Russia dopo essersi ferito a causa della detonazione di un ordigno che stava preparando per attaccare la polizia. Solidarietà con i compagni Francisco Solar e Monica Caballero, in detenzione preventiva in Spagna, accusati per l'attentato alla Basilica del Pilar a Saragozza. I nostri saluti in complicità, pieni d'amore e di anarchia, per i compagni Alfredo Cospita e Nicola Gai, imprigionati in Italia e orgogliosi membri del nucleo Olga FAI FRI, Amigos della Tierra, Federazione Anarchista Informal. E questo era il testo rivendicativo della Federazione Anarchica Informale Argentina. La firma la conosciamo perché già ha fatto già altri attacchi, sono stati già pubblicati vari testi su Radiazione, che lo ricordo non pubblica solo testi della Federazione Anarchica Informale, come qualcuno malignamente ci ha accusati. Allora, ora continuiamo con un brano di Mia, il brano è Bone Free, e poi dopo si ritorna con la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti. Cause I got something to say. I won't fall free. La masnada, quando voleva, sapeva essere ordinata. Si incamminò dunque docile dietro i condottieri, cioè i capitani e i pochi ufficiali montati a cavallo. Avanti corrivano alcuni schiavi muniti di fiaccola per rischiarare il cammino. I sentieri si restrinsero, dando una forma disegnata dalle pareti di tronchi a un'orda che avanzava a casaccio. Molto stanca, ma anche molto motivata dai propri ideali. Avidità, lussuria, appetiti disparati, egoismo, volontà di potenza. Nessuno si lamentava, nessuno mostrava sopore. Era l'ora in cui, sulle navi, si trincava prima di dormire e quindi cominciarono a passare lungo la colonna borracce di rum e di acquavite, utili a dimenticare lo sfinimento. La consegna era di un sorso a testa, vi fu chi eccedette, Macari per esempio diede due sorsi e poi passò la fiasca alle verte. «Mi ci voleva», commentò, «le gambe mi reggono appena. Quanto più bevo, tanto meno avverto la fatica». L'amico rispose, «è così anche per me, forse per tutti. L'importante però è non esagerare. Cosa pensi di fare con i soldi che troveremo a Veracruz?» «Ma bisogna vedere se riusciamo davvero a prenderla innanzitutto. Comunque, se diventassi ricco, aprirei un bordello a Petit Goavo a Port Royal». Oppure comprerei una goletta e commercerei in schiavi. Donne e negri sono la merce più richiesta e la si vende ovunque. A Cartagena, per esempio, o a La Habana, gli spagnoli chiudono volentieri un occhio sul venditore se le carni della mercanzia sono sode. E lo stesso vale per gli olandesi di Curaçao. Levert sorrise. «Ah, è bello scoprire che, dopo non so quanti anni che ci conosciamo, condividiamo gli stessi scopi. C'è chi vorrebbe che il commercio avesse limitazioni. Ma alcuni intuiscono che questa è una follia e stanno tornando sui loro passi. La Spagna stessa, il Papa, persino gente vicino al nostro re Luigi, non so tu, ma io mi sento come l'avanguardia di un mondo più giovane fatta apposta per dominare questo continente. Tutte stronzate, Cingadaf! Senti che puzza nel tuo nuovo mondo. La selva ce l'ha qui Trini». Magari cercò di deviare con l'avambraccio una torma di zanzare che si era avventata su di lui e i suoi compagni. Lontano grugnivano porci selvatici. La brezza, che aveva facilitato lo sbarco, non soffiava più e solo ogni tanto si levavano raffiche di un vento furioso, selvaggio, fastidiosissimo. Fu l'ingresso in un'enclave fatta di marciume, mucchi di foglie morte, puzzi maleodoranti e carcasse decomposte di rettili e di uccelli. Quasi non si respirava. L'aria era ammorbata da miasmi. «E gli spagnoli avrebbero edificato la loro grande capitale in mezzo a questo letamaio?» domandò Macari più che altro a se stesso. Chi gli rispose fu Ravenoux de Lusson, apparso alle sue spalle con una torcia in pugno. «Cortés ha spostato per ben 3 volte la città da lui fondata per sottrarla alle epidemie che sgorgavano dalle paludi. Adesso Veracruz, pur flagellata dalle intemperie, è relativamente sana. I buoni borghesi però lasciano la cura delle piantagioni attorno ai negri e agli encomendairos, affittuari indigeni resi schiavi da contratti capestro, vincolanti a vita. Muoiono come mosche, ma di ciò non importa a nessuno». La vegetazione si era rarefatta, la luna, fino a quel momento coperta da nuvoloni che lasciavano scoperti solo tratti di cielo stellato, fece finalmente la sua apparizione. Illuminò piante scheletriche, stecchi, palme ingobbite, un suolo sassoso che trasudava umidità. Le zanzare erano stormi e così gli altri insetti. Scendevano voraci sugli avventurieri in cammino. Macari si volse a guardare il poco gradito interlocutore. «Siete già stato qui, mi par di capire». «Eh sì», rispose Ravenò de Lussan, col solito ghigno insolente. «Io sono stato ovunque Dio non avesse il suo regno. Io e lui. Ci sopportiamo poco». «E su quale nave vi siete imbarcato?» «Sulla francesa di Lorenzillo, come medico. Forse avrei preferito Manorn, meno folle e divertente di De Graaf, però è più spietato. Ma va bene ugualmente, tutti noi in fondo abbiamo le stesse motivazioni». «E quale?» chiese Macari ingenuamente. Si aspettava temi come la libertà, la democrazia, cara agli antichi ateniesi, o anche risposte più ciniche e materiali. De Lussano intuì le sue aspettative e scoppiò a ridere, felice di deluderlo. «Nessuna motivazione precisa, è evidente. Uccidere, rubare e combattere sono piaceri in sé. Non richiedono giustificazioni, salvo quelle inventate dai preti, dai re e dai filosofi, di volta in volta. Più quelle scogitate a posteriori dagli storici». In quel momento la marcia della colonna si arrestò, mentre cominciava a cadere una pioggia sottile. Allo sbucare dei filibustieri in una radura era apparso, tra le ombre, il tipico polverin spagnolo, basso, quadrangolare, con merli possenti, tra cui si affacciavano 5-6 bocche di cannone. L'accesso era un piano stretto che saliva all'ingresso sopraelevato, facile da controllare. «È il baluardo di La Caleta», annunciò Van Horn, «il primo dei due che incontreremo». De Grammont, che ora si reggeva perfettamente a cavallo, malgrado lo stare in sella gli dovesse essere dolorosissimo, lanciò un ordine singolare. «Si facciano avanti i tamburini, ce ne saranno, no?» Molte navi pirata, infatti, possedevano una propria orchestrina. In mare intratteneva l'equipaggio. Lorenzillo era famoso per i suoi flauti e per i suoi violini, mentre durante gli abbordaggi contribuiva la cantilena, l'inno funereo e minaccioso ritmato dai filibustieri col battere delle sciabole sull'impavesata, quando i tamburi sempre più frenetici scandivano l'imminenza dello scontro. Era quello il momento in cui sull'albero di Maestra saliva la Jolie Rouge, presagio di morte certa. Accompagnavano l'apparizione del teschio e delle tibie urla belluine. Al lancio dei grappini le percussioni diventavano convulse e assordanti. Gruppi di adolescenti uscirono dalle file, il tamburo al collo, le bacchette in mano, e presero a suonare prima ancora che De Grammont lo ordinasse. Battevano il loro strumento lentamente per incutere paura. Dal forte un cannone sparò, la palla andò persa negli acquitrini. «Bucanieri in prima linea!» urlò il cavaliere. «Fuoco, fuoco, fuoco a volontà!» Gli si spezzarono le parole in bocca, ma ci volle un paio di minuti prima che i cacciatori della tortuga, puzzolente di sangue di cinghiale, potessero incastrare i fucili lunghissimi nelle forcelle, prendere la mira, accendere la miccia. L'esito dei loro spari fu spettacolare. 6 o 7 difensori, ombre scure di cui la luna mostrava solo la sagoma, caddero all'indietro come marionette. Uno di essi, con la testa quasi sfracellata, si aggrappò ad un merlo e precipitò dagli spalti. A quel punto gli spagnoli compirono la più stupida delle scelte. Spalancarono la porta d'accesso al polverino e si precipitarono fuori, guidati da un ufficiale che roteava la spada. I bucanieri, intanto, avevano avuto tutto il tempo di ricaricare e una gragnola di palle abbatté i coraggiosi, ufficiale compreso. Il fumo acre della polvere da sparo provocò accessi di tosse tra gli assalitori. Fu l'unico danno che subirono. «Bene, ma c'è un secondo fortino che ci aspetta», gridò Van Horn. Il suo cavallo, semisoffocato, nitriva e scalpitava. «È dentro semplicemente la polvora, non è lontano, e dopo Veracruz sarà nostra». Eccitati, i pirati si rimisero in cammino. Mentre i tamburi battevano una sorta di marcia funebre, bisognava adesso fare attenzione non alla vegetazione sempre più scarsa, bensì alle pozze che si aprivano sotto i piedi, nascoste da tappeti galleggianti d'erba fasulla. Il vento cresceva d'intensità e la luna era tornata invisibile. Molte fiaccole si erano spente sotto la pioggia. Questa sferzava solo a tratti e venne il momento in cui smise e lasciò un lezzo di putredine. Ed ecco la polvora, un fortino identico al precedente. «Nessuna musica, nessun rumore!» ordinò De Grammont. Il comando corse tra i ranghi disordinati degli assalitori. Si trattava di non svegliare la città, visibile oltre la costruzione. Nessun soldato spagnolo era sugli spalti. Se c'era una sentinella, la pioggia doveva averla costretta a ripararsi nell'unica torretta di guardia. Il silenzio era violato da suoni leggeri, dall'abbaiare di cani selvatici e dal gracidare incessante delle rane. Furono mandati avanti i gabbieri di tutte le navi per la loro attitudine ad arrampicarsi e gli arawakos, agili di costituzione. Alcuni grappini d'abbordaggio legati a cime furono fatti volteggiare nell'aria e poi lanciati. Fecero presa sul camminamento tra un merlo e l'altro con un rumore secco. Vi fu una corta pausa durante la quale nessuno diede l'allerta. Allora indigeni e gabbieri cominciarono a inerpicarsi, le mani strette sulla corda e i piedi sulle mura. Magari fu tra i primi a scavalcare il bastione. Non c'era anima viva. I cannoni erano abbandonati. Uno spagnolo uscì dalla guardiola, soffregandosi gli occhi con i pugni chiusi. «Che pasa?» domandò. Un pirata gli trafisse il ventre con la sciabola mentre un indigeno lo colpiva al capo con una clava. Tornò il silenzio. Una botola conduceva al piano inferiore, mal illuminato da candele che si stavano estinguendo. I filibustieri scesero con passo felpato i gradini. Trovarono in basso solo 5 soldati che dormivano su altrettante brande. Uno addirittura russava. Qualcuno trovi il portone e lo apra. Fu Macari che se ne incaricò. L'atrio era semibuio, ma appena ebbe schiuso il chiavistello entrarono le prime luci dell'alba. Con esse, De Grammont, che penetrò nell'ambiente a cavallo, chinando la testa, assieme a lui Fanorn e altri avventurieri che entravano a piedi. Il cavaliere si guardò attorno compiaciuto. Bene! L'ultimo ostacolo verso Veracruz è spianato, anche troppo facilmente per i miei gusti. Focara trascinò per la collottola uno degli spagnoli. Finalmente si erano svegliati e tremavano adesso di terrori. Che ne facciamo di queste canaglie? De Grammont alzò le spalle. Van Horn interpretò l'attitudine del comandante in capo e disse: lasciateli andare con un calcio nel culo. Non possono più dare l'allarme. Tra breve la città sarà nostra e avremo in mano selvaggina molto migliore di questi qua. Lui e il cavaliere allora spronarono i loro animali e tornarono all'esterno, dove l'alba stava rivelando tutta l'estensione di Veracruz. Non pioveva, ma il vento soffiava forte di grecale. Le palme agitavano le chiome, quasi presagissero l'esplosione di una furia incombente. We'll be right back. E loro erano Pintans Blue con il brano After All. Ora continuiamo con la controinformazione. Prima di passare alla prima notizia, ricordo per chi è di Napoli, stasera al Perditempo, al bar libreria Perditempo, ci sarà la presentazione del sito di Anarchist Library, un sito che penso chi è tra i compagni anarchici è conosciuto, per chi non lo conosce è un libro che mette a disposizione testi in vari formati, sia per scaricarseli e leggere, sia per ristamparli, ci sono vari formati. Il sito è in inglese per ora perché manca una sezione italiana, però penso che comunque è una cosa interessante perché permette a chiunque l'accesso a libri, ma anche non solo libri, chiunque può pubblicare qualcosa sul sito. Basta andare su blog di Radiazione, trovate tra i link il link di Anarchist Library, e ci cliccate sopra, lo aprite e capite pure un po' come funziona. Ricordiamo anche testi che è diventato molto difficile recuperare, tante biblioteche quanto in librerie e quant'altro, testi scomparsi, sì, che invece vengono rimessi. Sì, quindi poi comunque c'è la possibilità di ristamparli e rimetterli in circolo. Allora, dopo questa breve info passiamo a un'altra informazione. Sono creato aggiornamenti sui due compagni arrestati il 13 novembre a Barcellona, insieme agli altri tre che sono stati rilasciati con delle restrizioni. Parlo di Francisco Solar e Monica Caballero. I compagni Francisco e Monica sono detenuti nelle carceri spagnole dal 17 novembre dopo 5 giorni di isolamento nelle mani dell'unità antiterrorista. Inoltre è confermato che i compagni sono sottoposti al regime FIS 2, ovvero quello dedicato ai crimini di allarme sociale. Francisco soffrisce di 3 ore d'aria che può fare in compagnia di un solo altro detenuto, il resto delle ore resta chiuso in cella. Monica ha diritto a 3 ore d'aria ma da sola, visto che nel carcere dove si trova non ci sono altre prigioniere sottoposte al suo stesso regime. La maggior parte dei colloqui viene fatta in sala e non ci sono restrizioni sulla corrispondenza, si può scrivere ad entrambi. A breve i compagni solidali metteranno a disposizione un conto bancario di supporto ai 5 compagni accusati, 3 compagni liberi e Francisco e Monica in carcere. In modo da ottimizzare l'amministrazione dei soldi si invita a non fare versamenti diretti così che i soldi non vadano persi. Sul blog di Radiazione trovate anche gli indirizzi per scrivere sia a Francisco che a Monica, lo ricordo, sono i due compagni cileni che stavano a Barcellona, compagni cileni che comunque uscivano da un'altra operazione, quella famosa operazione Bombas, una montatura allucinante di cui che poi finì tutto in una bolla di sapone dopo arresti, mesi di detenzione e tutto quello che ne conseguiva. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Nitzereb, Join the Chant, e poi dopo si torna qui con la lettura di Vera Cruz di Valerio Evangelisti. Thank you. La città addormentata, malgrado il sole che si stava levando, non si attendeva a una simile tragedia. Lorenzio fece irruzione da sud, De Grammont e Van Horn da nord. I pirati correvano, urlando come ossessi promesse di morte. Le vie erano deserte, a parte qualche cane randagio che si trascinava a fianco delle canalette delle immondizie e dei liquami, su suoli di terra battuta. Le imposte di una finestra al primo piano si aprirono. Un uomo attempato, con una cuffia da notte, sporse il viso. «Mio Dio!» gridò. Un pirata gli scaricò in piena faccia la pistola. L'altro cadde all'indietro come un birillo. Dalla casa vennero voci femminili terrorizzati e pianti di bambini. Re Texar, che aveva visto la scena, rimproverò rudemente lo sparatore. «Niente spreco di pallottole, Hans van der Laan! Ci dedicheremo ai civili non appena avremo preso il palazzo del governatore, per Dio!» La masnada continuò la sua corsa in direzione del centro della città, lungo la calle de las Damas e la calle de la Merced. A dispetto del frastuono e delle urla, la maggior parte dei veracruziani continuava a dormire. Si cominciavano però a udire qui e là delle grida, più di stupore che di allarme, mentre il vento, sempre di grecale, accentuava il suo impeto, disperdendo a tratti i rumori. Alcuni spagnoli uscirono sulla soglia di casa in camicia da notte e, senza capire bene cosa succedeva, si affrettarono a rientrare e a sbarrare la porta. Nella zona centrale le abitazioni erano più alte e più ampie, sovrastate dall'enorme cupola e dal campanile della cattedrale ancora in costruzione. Fu di fronte alla fiancata massiccia in cui si apriva l'ingresso sbarrato della chiesa che le due squadre, quella di Lorenzio e quella di De Grammont e di Van Horn, si congiunsero. «Incontrato problemi?» chiese il comandante in capo. «No, cavaliere!» rispose Lorenzio in tono allegra. «A parte questo ventaccio maledetto che il diavolo ci soffia contro, o forse lo soffia contro gli spagnoli, è più probabile. Che mi dite della fortezza a sud? È poderosa, con 12 cannoni ma pochi difensori. L'ho lasciata alle cure di Charles Ruiné e dei suoi enfants perdus, la fanteria leggera. Dovrebbe capitolare entro un'ora, male che vada.» Lo sapremo perché ho ordinato a René di volgere l'artiglieria contro l'abitato e di bombardare qualche casa, tanto per far capire che facciamo sul serio. De Grammont approvò con un cenno della testa. Ottimo. Capitano Pennot, ci siete? Sono qua, cavaliere, rispose l'interpellato alzando la sciabola. Scegliete 80 uomini validi, li condurrò personalmente all'attacco del palazzo di governo che di sicuro ha un suo presidio, o quantomeno un corpo di guardia. Vengo con voi, disse Lorenzillo. Finora non ho sparso una goccia di sangue per la barba del demonio. No, non occorre. È più importante che con Jean-Kis Piu, Le Sage e gli altri iniziate subito il saccheggio. Cominciate dalle case più lontane. Non vorrei che la gente di qui, una volta sveglia del tutto, prendesse la strada dei boschi. Nemmeno una di queste canaglie deve sfuggirci. E badate di tenere in vita i ricchi, i preti, i frati, le donne e gli schiavi di buona salute. Oh, saranno una folla, comandante. È radunato in questa piazza in attesa del mio ritorno. Fanorn, venite con me. Magari fu tra gli 80 che seguirono De Grammont mentre il resto dell'orda si sparpagliava nelle strade. La residenza del governatore era poco distante e proprio sul retro della cattedrale, in un prolungamento di Plaza Mayor. Era un edificio a due piani detto Casas Reales, con mura tinte di rosa e molte arcate rette da colonnine. Da un lato era delimitato dal campanile di una cappella, dall'altro lo sormontava una torretta con una campana, all'estremità di una lunga terrazza che fungeva da tetto. Ad angolo retto, a meridione, si ergeva la sede in mattoni rossi della contaduria, o tesoro, che ospitava il cabildo, il governo municipale detto anche ayuntamiento. Sui terrazzini del secondo piano Pennot scorse per primo un'attività sospetta. «Che sta facendo quell'imbecille?» chiese puntando il dito. Si vedeva in effetti un uomo con corazza ed elmo piumato che stava dando fuoco con una torcia ad una bandiera spagnola, quella ufficiale della monarchia bianca e con al centro lo stemma elaborato di Castiglia e d'Aragona. «Sta bruciando la bandiera perché non cada in nostre mani», osservò De Grammont. Si rivolse a un bucaniere che portava in spalla il suo fucile smisurato. «Amico, riusciresti a colpire quel cretino senza ucciderlo? Mi basta che cada giù in basso con una gamba spezzata». «Sì, comandante, ci provo». Il semiselvaggio con una velocità imprevista montò la forcella e vi posò il fucile. Sputò sul proprio pollice per calibrare la velocità del vento. Trasse quindi da sotto il berretto una miccia corta. La fissò al fornello dell'arma e poi l'accese. Un istante dopo il colpo partì con fragore, tra una pioggia di scintille. Si spanse un fumo grigio e acre, che subito però si disperse. Con un grido lo spagnolo cadde dal terrazzo e si spezzò le ossa al suolo. De Grammont scese da cavallo e lo raggiunse. L'uomo era malconcio, l'anca gli sanguinava, ma era ancora vivo. Il cranio, ripalato dall'elmo, pareva intatto. Stringeva contro il petto il vessillo quasi incenerito. «Chi siete e come vi chiamate?» gli chiese il cavaliere roteando la punta della sciabola vicino alla sua gola. Lo spagnolo era ancora lucido, ma faticava a parlare per il dolore che le fratture e la ferita gli provocavano. Perdeva molto sangue. «Lo so, è l'alfiere Diego Martinez!» riuscì a mormorare e in un improvviso soprassalto di energia aggiunse: «Da me non saprai altro, dannato pirata, che Satana ti trascini con me all'inferno!» «Pennu!» stava per dare un calcio all'osso del bacino che sporgeva dall'anca lacerata e bruciacchiata dello spagnolo, ma De Grammont lo bloccò con un'occhiata severa. Levò la lama della sciabola in gesto di saluto. «Siete un coraggioso e un patriota, alfiere, e avete il mio rispetto. Sarete curato, se è ancora possibile salvarvi o rendere meno dolorosa l'agonia». Il ferito lo guardò con stupore e non disse nulla. «Ciò che volevo chiedervi non era affatto compromettente. Desidero solo sapere se il governatore Luis Bartolomé de Córdoba e Zúñiga è nel suo palazzo». «Sì, c'è, è tornato ieri». «Curioso che si sia lasciato cogliere del tutto impreparato». «Oh, il castellano di San Juan de Ulua lo aveva avvertito», spiegò l'alfiere tra ripetuti colpi di tosse, «ma il governatore si è limitato ad aumentare il corpo di guardia ed è andato a dormire». «Questo volevo sapere». De Grammont tornò al suo cavallo, ma Carillo aiutò a infilare il piede sinistro nella staffa e poi a sollevarsi faticosamente in sella. «Devo chiamare ex Kemeling o uno degli altri chirurghi, capitano». «Perché?» «Per soccorrere il ferito». De Grammont fece una smorfia. «Niente affatto. Avete sopravvalutato quell'alfiere, mi ha spifferato tutto ciò che mi interessava. Un soldato d'onore può dire nome e grado, ma nient'altro. Né sotto tortura, nemmeno che mai davanti a blandizie. Anzi, fatemi un piacere, Macari. Uccidete quel vigliacco schifoso, segategli la gola da un orecchio all'altro. Macari estrasse una daga che portava alla cintola, ma non vi fu bisogno di eseguire l'ordine. Il prigioniero era già morto, per le fratture e per la perdita di sangue. Ligio al dovere, comunque, sgozzò il cadavere. In quel momento si udirono dei colpi di cannone e i tetti di case lontane volarono in pezzi. Evviva! Esclamò Fanorn. Charruiné ha preso la fortezza a sud. Seguirono altre cannonate e altre demolizioni. I pirati accompagnarono con lo sguardo incantati la traiettoria dei proiettili. Purché Ruiné non esageri, mormondò Pendù, e ci lasci qualche casa intatta. Il bombardamento in effetti cessò quasi immediatamente. A quel punto non c'era un solo spagnolo addormentato. Si udirono grida d'aiuto di disperazione che presto divennero un cupo rumore di sottofondo, assieme ai colpi di armi leggere. I pirati, sparpagliati a branchi per vie, urlavano incitamente e minacce a pieni polmoni. «E beh, che fate? Guardate i fuochi d'artificio!» De Grammont lanciò una bestemmia grossolana verso un gruppetto di avventurieri intenti a fissare il cielo. «La nostra meta è il palazzo del governatore, là, davanti a noi!» Sul terrazzo superiore dell'edificio detto Casas Reales, sferzato dal vento, si notarono dei movimenti e uno scintillio di corazze. Poi echeggiarono qualcuno prese a suonare con frenesia la campanella. De Grammont bestemmiò di nuovo. «Odio il suono delle campane», indicò il gruppo di balestrieri. «È il vostro momento! Fate un lavoro di precisione, i bucanieri si preparano a tirare!» «Chi ha delle granate raggiunga il colonnato e le getti sui portoni», incalzò Vanorn. «Poi si passi alle asce!» I dardi dei balestrieri si rivelarono poco efficaci perché furono deviati dalle folate. Invece, i fucili dei bucanieri dimostrarono ancora una volta la loro potenza letale. Alla prima scarica il fuoco nemico si diradò e la campana smise di suonare. Si sparava anche dalle finestre del piano inferiore, ma lì le granate, gettate attraverso le inferriate contro le porte, furono risolutive. In un fumo nauseabondo, chi era armato di scure fece a pezzi ciò che restava delle ante. Gli avventurieri scavalcarono assi e detriti e fecero irruzione nelle Casas Reales con la furia di belve. Li precedevano Van Horn, De Grammont e Pennot, scesi da cavallo. Un maggiordomo che sostava inebetito in mezzo ai corpi di tre soldati fu trafitto da una picca e calpestato. Un soldato superstite che aveva gettato il moschetto fu abbattuto a colpi di mazza. De Grammont afferrò per il collo uno schiavo africano che invocava pietà con voce piagnucolosa. «Dov'è il governatore?» gli chiese. Il negro, tremante, indicò una scalinata di marmo. «Sopra!» disse piangendo. De Grammont lo scartò bruscamente e zoppicò verso i gradini con gli altri capitani dietro. Macari ebbe appena il tempo di gettare un'occhiata alla vasta sala. Era tutta a specchi, velluti, arazzi, marmi, ninnoli e cineserie. Il solo lampadario centrale quasi valeva il costo della spedizione. I filibustieri erano abbagliati. Mai visto tanto lusso. E ormai era loro. quindi ora passiamo ancora alla controinformazione e diamo un po' di notizie brevi un po' dal mondo, perché ci sono un po' di scioperi della fame, prigionieri che si uniscono in Grecia allo sciopero della fame di Spiros Stratoulis. La sua condizione ha fatto che gli vengano rifiutati i permessi, ci sono alcuni testi che nei prossimi giorni verranno tradotti e messi sul blog di redazione, uno di un detenuto che si chiama Kallis Ramadanoglu. Ci sono anche altri compagni che hanno seguito lo sciopero della fame di Spiros per dargli solidarietà. Ci sono dei presidi in Grecia continui sotto il carcere dove è detenuto Spiros, per l'appunto. Invece prossimamente si farà anche la traduzione di un testo scritto da Mario Gonzalez, che ringrazia tutti quelli che ultimamente stanno appoggiando la sua lotta, gli stanno dando solidarietà. Poi leggerete comunque dalla traduzione cosa dice il compagno, di cui abbiamo largamente informato sulla reazione, sulle sue condizioni detentive, il fatto che era stato portato in ospedale senza il suo volere. Prossimamente ne saprete di più. A Berlino, come anche in Portogallo, ci sono state manifestazioni in solidarietà con Francisco e Monica, striscioni appesi sui duomi, in piazza. Insomma, qualcosa in Europa si sta muovendo, in Europa anche in Sud America specialmente, perché poi la situazione di Francisco e Monica è molto seguita in Sud America. Lo ricordo ancora una volta che Francisco e Monica sono due compagni cileni arrestati già un paio d'anni fa per il caso Bombas. Volevi dire qualcosa tu? Sì, che l'attenzione che Radiazione fa alle traduzioni è un'attenzione seria, nel senso che cerchiamo di metterci tutta la nostra correttezza nel tradurre dei testi. Se qualche volta scivoliamo su alcune cose, non utilizziamo strumenti meccanici, ci mettiamo tutto il nostro. Ci sono delle compagne che ci aiutano, ma i testi che pubblichiamo non sono sicuramente le traduzioni. Ultimamente in Italia in particolare non ce ne sono gente che fa traduzione. Infatti, se qualcuno è in ascolto e conosce lingue e vuole aiutare anche la redazione per quanto riguarda la traduzione e la divulgazione di notizie, lo può fare attraverso, cioè fa la traduzione e poi può mandarci tutto attraverso la mail di redazione@giocioliinalistici.org, perché comunque è un bel lavoro. Io e qualcun altro lo fa perché comunque è convinto di fare, cioè è pienamente convinto di fare questa informazione. Quindi se c'è qualcuno che può aiutare la redazione e la traduzione, sono contento e siamo contenti. E quindi Armil la conoscete, la redazione di giocioliinalistici.org, quindi se ci avete voglia traducete ogni tanto qualcosa e mandatelo a redazione. Ovviamente si metterà pure la fonte traduttiva, se voi volete si metterà pure chi ha fatto la traduzione, ma decidete voi. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Second Voice con il brano Another Foolish Attempt, e poi dopo si torna qui con la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti. piano superiore era sfarzoso quanto l'atrio sottostante. Gli avventurieri, abbaccinati, calpestarono quasi con reverenza i tappeti morbidi, attenti a non far cadere i vasi di porcellana e i piatti di maiolica posati sui caminetti e sui tavolini di marmo. Fanorn notò quell'atteggiamento e si incollerì. «Ma cosa credete di essere in chiesa? Siamo qui per rubare, mordieu, e per distruggere quello che non possiamo portare con noi!» E così dicendo diede una sciabolata a un dipinto con soggetto bucolico, fendendolo in diagonale. «Cominciate a insaccare questa roba e a portarla via! Devo essere io a dirvelo, per Dio!» L'esortazione strappò gli uomini dal loro stupore. Molti di essi si gettarono su tutto ciò che luccicava: candelabri d'argento, ninnoli d'oro, bicchieri di cristallo, specchiere, pendole dai quadranti complicati. Il grosso però seguì De Grammont nella sua marcia claudicante lungo i corridoi del palazzo. Non incontravano che camerieri in parrucca e livrea, tremanti di paura, e serve indigene ancor più spaventate. I pirati non degnarono di uno sguardo quella fauna domestica. Infine De Grammont, spazientito e dolorante per la lunghezza del tragitto, chiese ad uno schiavo africano che aveva in testa un buffo turbante: «Insomma, dove diavolo sono il governatore e tutti gli altri?» L'uomo, che sudava copiosamente, indicò una porticina nascosta da un tendaggio. «È là dietro, signore, con la sua famiglia.» De Grammont strappò la tenda e spalancò l'uscio con un colpo dell'elsa della sciabola. Lo spettacolo che si parò davanti agli occhi suoi e della ciurmaia che lo seguiva aveva dell'onirico. Come in certi ritratti familiari della pittura spagnola, Don Luis Bartolomé, governatore di Veracruz, sedeva su una poltroncina centrale, circondato dai suoi cari. Erano immobili e silenziosi, quasi fossero rimasti fissi in quella posizione per un secolo almeno. A fianco del dignitario c'era la moglie, bruttissima. Alle sue spalle figli e figlie, tutti col naso ad unco della madre. Davanti un paio di bambini strangolati dagli enormi colletti di raso increspato. Unico elemento vivo in tanta fissità, una dama che sostava davanti ad uno specchio e che si muoveva irrequieta. Hubert Macari la riconobbe all'istante. Era Gabriela Genoux Vergara, fulgida come la prima volta che l'aveva incrociata, e altrettanto altera nella sua veste di trina, nastri e pietre preziose. Orpelli che non potevano nascondere dietro l'appariscenza una personalità forte e nervosa, senza un grammo di dolcezza. De Grammont si inchinò sulla mummia obesa affondata tra i braccioli e i conforti familiari. «Signor Luis Bartolomé, siete vinto! In nome del mio re, Luigi XIV di Francia. Vedo che non avete neanche una spada. Beh, ordinate che ve ne portino una e consegnatemela in atto di sottomissione. Dopo, voi e i vostri cari sarete trattati secondo le regole di guerra.» Il governatore sporse le labbra come se dovesse succhiare qualcosa e la voce gli uscì stridula e insicura. «I nostri paesi sono in pace. Non vedo il motivo di questa aggressione inaudita.» «Lo vedo io», De Grammont sogghignò. «Voglio il vostro oro, le vostre merci preziosi, i vostri schiavi, il monopolio della Spagna sui traffici in questo mare. Finisce oggi!» Malgrado la paura evidente che gli faceva tremolare le guance cadenti, Don Luis si permise una domanda ironica. «C'è altro che volete?» «Oh, sì!» Per la prima volta De Grammont fissò Doña Genoux Vergara. «Voglio le vostre amanti.» Gabriela reagì in maniera strana e invece di abbassare gli occhi batté le palpebre in modo da rendere le pupille scure più scintillanti. Quanto al governatore, sbirciò fugace la moglie seduta al suo fianco e disse con un filo di voce: «Signore, questa è una prepotenza, vi metto in guardia. Ci sono guarnigioni tutto intorno alla città, la flotta dell'ammiraglio Diego Fernandez de Zaldivar incrocia poche miglia, è nel vostro interesse lasciarci in pace e ritirarvi in fretta.» «Ah, correrò il rischio. Insomma, vi arrendete o volete che vi uccida?» Mi arrendo, ma non ho né una spada né ormai camerieri che possano portarmela.» De Grammont si strinse nelle spalle. «Beh, per una volta passerò sopra le formalità.» Si rivolse a Van Horn. «Nicolas, vi affido questa gente, rinchiudetela in un luogo sicuro e fate in modo che non sia torto loro un capello. sono gli ostaggi di maggior valore. Vi assicuro che sarete obbedito, ammiraglio. Il gruppo dei prigionieri sfilò davanti a De Grammont, prima i bambini e poi seguivano gli adulti. Quando fu il turno di Donna Gabriela Junot Vergara, il pirata le sfiorò la vara posizione della schiena e del collo nuda fra le trine. Lei si volse di scatto e gli sorrise. Sì? De Grammont si tolse il cappello e si inchinò. Oh, spero di farvi visita molto presto, mia signora. La dama lo contemplò con sfrontatezza, come se lo stesse esaminando, e finì col dire: lo spero anch'io. Hubert Macari, che era a pochi passi, fu invaso dal solito immotivato senso di gelosia. Lo distrasse lo spettacolo che adesso si godeva attraverso le larghe finestre a tutto sesto. Le aree di Veracruz più lontane dal mare, gremite di capanne di legno e paglia, stavano bruciando. Colonne di fumo nero si levavano, sfidando le correnti impetuose che agitavano l'aria. Il cielo, nuvoloso, contribuiva a far gravare sulla città una cortina di tristezza, quasi che il clima cogliesse a interpretarsi il lutto in cui era condannata. Dal basso seguitavano a provenire grida e lamenti. Appena Macari ebbe rimesso piede in strada, ai colori cupi si aggiunse un afrore soffocante e disgustoso. Il vento spingeva fino al porto i miasmi raccolti nelle paludi, morbosi e insalubri. Ogni tanto cadevano brevi piogge, non abbastanza intense però da depurare l'aria. Faceva un caldo estivo, ma la luce era invernale. La sensazione complessiva era di tristezza e di malattia. Levert lo raggiunse. Sembrava allegro, malgrado il contesto. Guardali là, tutti in camicia da notte, aspettavano i loro pitali di ceramica e adesso pisciano in terra. Indicava, ridendo, una vera folla che gli avventurieri stavano ammassando al lato della cattedrale incompleta. Rappresentavano i due estremi della società coloniale spagnola. C'erano famiglie intere, riconoscibili dalla ricchezza degli abiti o, nella maggioranza dei casi, dalla seta delle camicie lunghe fino alle caviglie. Gente che, senza dubbio, aveva i suoi rappresentanti nel Cabildo Abierto, l'assemblea dei maggiorenti. Ma c'erano anche tantissimi schiavi negri, a volte vestiti con stoffe pregiate, multicolori e ornate di perline o persino di gemme. Non mancavano gli uomini e le donne di qualsiasi condizione sociale completamente nudi. Il caldo li aveva indotti a dormire senza curarsi del pudore e ora rimpiangevano la scelta. L'osservazione di Levert non era gratuita. Non pochi prigionieri, per la paura e per il freddo, avevano svuotato la vescica al suolo o tra le gambe. I pirati trovavano la scena divertente e si facevano beffe dei malcapitati, specie se femmine. Altri badavano a compiti meno innocui. Si udì un urlo più acuto dei lamenti correnti. Oh, i fratelli hanno già cominciato con gli interrogatori, osservò Levert. Quel tizio si è illuso di poter essere reticente sui suoi tesori. Gli altri allora capiranno cosa li aspetti. Si riferiva a un nobiluccio tenuto fermo da quattro pirati, tra cui l'erculeo Big Willy. Lo stavano sottoponendo alla tortura più tipica dei fratelli della costa, il fastidio, la chiamavano. Gli avevano riempito la bocca di paglia secca e gli avevano dato fuoco. Le fiamme ustionavano il palato, la gola e la lingua del poveretto, lambivano la barba e le sopracciglia, lo soffocavano col fumo. Il prigioniero gemente cercò di scuotere la testa che Big Willy teneva ferma. E infine, Pierbot, che dirigeva il supplizio, disse: «Svuotategli le labbra! Penso che il signor Alguacil Mayor, capo della polizia, si deciderà a confessare dove ha nascosto i suoi beni, se riesce ancora a muovere la lingua, che però penso sia diventata un bel tizzone!» Macari non prestò attenzione al resto dell'interrogatorio. Affluivano filibustieri carichi dei beni scovati nelle case. Argenterie, arazzi, dipinti di incerto valore, schiavette giovani ma formose, tappeti, sete, gioielli, negri in buona forma. Tornato a cavallo, De Grammont tentava di regolare il traffico, impresa impossibile, tanto che sbottò: «Non si può continuare in questo modo, serve una prigione sicura che li contenga tutte. Sono 5 volte più numerosi di noi!» Van Horn si guardò attorno. «L'ideale sarebbe la cattedrale, è incompleta ma la pianta è larga.» «No, ha troppe uscite», ribatté De Grammont. «Però la scelta di una chiesa è giusta. Qualcuno ne conosce di abbastanza capienti?» Lorenzio, che cavalcava poco distante, aveva udito e rispose: «Ce n'è solo una che fa per noi, mi general, Nuestra Signora della Merced, non è distante da qua. E allora fatevi condurre i prigionieri, capitano. Dopo minate le mura, in modo che, se necessario, possiamo ucciderli tutti in un colpo solo. Questo spegnerà ogni fantasia di ribellione e li indurrà a riscattare la propria libertà. Devo separare i bianchi dai negri, gli uomini dalle donne.» De Grammont sbuffò d'impazienza. «No, non occorre. A me interessa solo che siano racchiusi in un'unica gabbia, pronti ad essere arrostiti in un unico falò se si mostrano avari.» Nella mezz'ora successiva Macari e Levert furono impegnati con gli altri avventurieri a sospingere gli spagnoli e i loro schiavi verso la prigione cui erano destinati. I pirati, per farli marciare, non lesinavano le percosse con il piatto delle sciabole, né le frustate o i colpi di cinghia. La massa, intirizzita dal vento, finì col formare una lunga colonna di corpi incespicanti, comprendente anche un buon numero di bambini. La destinazione era una larga chiesa a pianta circolare, sormontata da una cupola più piccola, rivestita di tegole rosse, e da una croce. La costruzione fronteggiava il porto ed era riparata da un tratto di mura ancora non terminato. All'arrivo dei prigionieri, preceduto da quelli che le ustioni del fastidio avevano reso quasi irriconoscibile, cieco e mugolante, il parroco si affacciò sulla porta con le braccia alzate. «Ah, io sono Don Benito Alvarez de Toledo», disse in francese con forte accento spagnolo. «Non vorrete profanare questo tempio cristiano ammassandovi quegli infelici, spero!» Lorenzio guardò il prete dall'alto del suo cavallo, sollevò il cappello piumato in segno di rispetto burlesco. «Per la coda di Satanasso! È proprio quello che intendiamo fare! Ma perché parlate di profanazione, Don Benito? Stiamo dandovi il modo di dimostrare la vostra carità cristiana, per Dio! Avrete alcune migliaia di cittadini di Veracruz da soccorrere. Se vi riuscirete, il paradiso è tutto vostro, di diritto. E ora, toglietevi dai piedi e fate entrare questa gente prima che i miei uomini uccidano una decina di buoni cittadini di Veracruz a casaccio, non per cattiveria, ma solo tanto per convincervi.» Il parroco ebbe un'ultima esitazione. «Ma vedo persone anziane, donne incinte, davvero non avete un briciolo di pietà?» «Quanto alle donne, non sono stato io, e voglio sperare che non siate stato nemmeno voi», sghignazzò Lorenzio. «Su via, Don Benito, fatevi da parte. Molti di costoro sono nudi o in camicia. Non vorrete che si ammalino, no, porco d'un diavolo? Le avreste sulla coscienza.» Il prete sparì. Sotto i colpi i prigionieri furono spinti nella chiesa. Ci volle quasi un'ora per farceli entrare tutti. Alla fine, all'interno non si respirava. Il cielo intanto si scuriva, percorso da nuvole veloci e cariche di pioggia. Hubert Macari provò ad affacciarsi alla chiesa di Nuestra Signora della Merced, ma dovette immediatamente ritirarsi. L'unica navata era gremita di corpi fetidi e sudati, schiacciati uno contro l'altro. A dispetto di un foro sotto la cupola, alla base della croce, si respirava a fatica. I bambini, in braccio alle madri, strillavano, e le madri stesse, che si sforzavano di tenerli alti perché potessero respirare, piangevano. Gli schiavi, forse memori del viaggio che li aveva condotti nel nuovo mondo, apparivano un po' più calmi. Corpi seminudi erano premuti contro le tonache dei religiosi fatti prigionieri. In una parola, l'inferno. Macari dovette ritirarsi e riempirsi i polmoni d'aria, peraltro inquinata dai miasmi che la brezza, violentissima, trascinava dagli acquitrini attorno alla città. «Mai visto un orrore simile», disse Allevert. «Nelle Fiandre, dove la corona raccomandava la spietatezza, si uccideva, ma non si allestivano carnai per soffocare in massa i prigionieri». L'amico fece un mezzo sorriso. «I tempi si evolvono. La stessa Inquisizione a Siviglia ha concepito piccoli forni in cui calcinare gli ebrei che si fingono cristiani. Noi ci adeguiamo al livello medio di cattiveria che ci viene dall'Europa». La frase era elaborata e pretenziosa, e Macari non se la sarebbe mai aspettata da qualcuno che, prima di prendere il mare, era stato un semplice sicario. Guardò Levert interdetto, ma cambiò decisamente argomento. «Senti, ma credi che Doña Gabriella Ginù Vergara sia lì dentro?» Parlò con un'indifferenza affettata, ma dava per scontato uno sguardo malizioso dell'amico che, in effetti, non mancò. «Non penso, io non l'ho vista, del resto gode i favori del Sieur de Grandmont. Non la metterebbe a soffocare con gli altri, suppongo». «Hai ragione», ma Cariso, malgrado si sentiva sollevato. «Torniamo in Plaza Mayor, è tempo di mangiare qualcosa». In realtà gli premeva soprattutto scoprire dove era stata rinchiusa la dama, ma per questo non l'avrebbe mai confessato né a Levert né ad altri. Era però vero che avvertiva appetito e anche una grande stanchezza. La notte passata insonne cominciava a farsi sentire e la fatica pesava. Dopo aver strappato alle case merci di ogni tipo, dalle suppellettili in metalli preziosi ai tappeti, e averle accumulate nella piazza principale, gli avventurieri obbedivano sempre più pigramente alle sollecitazioni dei loro capi. Molti di loro, ritenendo esauriti i propri doveri, si erano sdraiati sotto i portici del governatorato e della contaduria per proteggersi dalla pioggia ricorrente, e adesso dormivano. Altri spilluzzicavano fette di carne scovate nelle cucine delle case saccheggiate. «Quattro ore di riposo!» si decise a ordinare Re Texar, e anche lui teneva a malapena gli occhi aperti. «Salvo alcuni volontari di guardia alla chiesa della Merced!» Macari guidò le verte verso una villetta imbiancata a calce di fronte alla fiancata della cattedrale, che dava l'impressione di non essere stata saccheggiata a fondo. Mentre spingevano il cancello in ferro battuto che dava accesso al patio, si imbatterono in altre due filibustieri che ne uscivano, carichi di sacche pieni di argenteria. «C'è qualcosa da mangiare qui?» chiese Macari. Il pirata che gli rispose lo conosceva di vista. Era imbarcato con Lorenzillo, si chiamava Henri Duval. «Sì, camerata. Vai nella cucina, in fondo al cortile, troverai pollame e carne di porco, e ogni ben di Dio». Data la loquacità del confratello, Macari osò domandargli: «Sai dove De Grammont abbia imprigionato il governatore e i suoi ospiti?» Duval lo squadrò. «Strana domanda. Che cosa te ne importa?» «Beh, io ho contribuito alla loro cattura, non li ho visti nella chiesa in cui sono rinchiusi gli spagnoli». «Ah, sì, e beh, allora credo siano nella contaduria a giudicare dal corpo di guardia. De Grammont li considera preda personale. Ti saluto perché questa roba che ho sulla schiena pesa». La cucina, molto spaziosa, con sfilze di arnesi appese al muro e un lungo tavolaccio, un forno che giungeva anche da stufa, Una larga finestra che dava sul patio odorava di spezie e di intingoli. Dal soffitto pendevano carni di ogni tipo. Leverta afferrò con un salto un prosciutto spagnolo, flagrante nella sua cotenna coperta di ceneri e spezie. Ne tagliò fette irregolari con un coltellaccio. Intanto Macari posava sul tavolo alcune pagnotte scovate in un paniere e stappava due bottiglie di vino verde portoghese. «Ti stai esponendo troppo», disse Levert. «È chiaro che Doña Gabriela ti interessa. Non scordare a chi è destinata». Macari rispose con la bocca piena: «Sono congetture le tue, non di tutti. Quanto più farai domande in giro, tanto più la voce si divulgherà, fino ad arrivare alle orecchie di chi sai tu». Magari, mezzo ubriaco per il vino, bevuto senza cibi ancora sufficienti per assorbirlo, quasi si inalberò. «E mi fai di questi discorsi, Francis? Mi conosci ormai da anni. Se il mio capitano sceglie una donna, non sarò io a ribellarmi. Che lei mi piaccia o no?» «Ah, io parlavo d'altro, del fatto che al capitano, diciamo cavaliere, giunga notizia della tua passione. Ah, non ci saranno comunque sviluppi, mangiamo, è meglio». Si ingozzarono di prosciutto e bevvero altre due bottiglie di vino. Dopo si aggirarono per la casa alla ricerca di una camera da letto. Ne trovarono una al secondo piano, con baldacchino, tendaggi e lenzuola di seta. Non fecero caso alle piccole macchie di sangue che imbrattavano le coperte. Deposero le armi su un divanetto, si distesero sui pagliericci imbottiti di piume d'oca fianco a fianco e si addormentarono all'istante. Meno di due ore dopo furono svegliati da una sequela di colpi di cannone, lontani ma sonori. Levert fu il primo a raggiungere la finestra. «Sparano dalla fortezza!» annunciò. «Finalmente si sono accorti che abbiamo conquistato la città e hanno girato l'artiglieria!» Magari, ancora assonnato, sedette sull'orlo del letto e si stirò. «Fanno danni?» «Non tanti, direi. Riescono a malapena a colpire le banchine del corpo. Più che altro stanno demolendo imbarcazioni spagnole alla fonda». Quando Macari raggiunse l'amico, poté vedere San Juan de Ulua avvolto nel fumo e incendiato dalle fiammate. La potenza del fuoco era impressionante, ma la gittata limitata dei pezzi troppo pesanti la rendeva innocua. Solo i moli volavano letteralmente in frantumi che schizzavano alti nel cielo e costituivano l'unico pericolo per gli avventurieri. Nessun proiettile aveva ancora raggiunto il centro di Veracruz. Invece, varie barche da pesca, un grosso mercantile e una goletta stavano affondando. «Ah, eccovi qua, dannato sia il demonio!» gridò una voce nella stanza. «È mezz'ora che vi cerco! Van Horn vuole vedervi per incarico di De Grammont!» Macari si chinò oltre la balaustra. Sotto di loro c'era Lorenzillo, a piedi, seguito da qualche marinaio. Sembrava molto irritato. «Veniamo subito, capitano!» gli rispose. Lui e Levert allora si caricarono in fretta delle sciabole, delle daghe e delle pistole che avevano abbandonato sul divano. Solo allora si accorsero di due piedini scuri della pianta rosea che uscivano da sotto il giaciglio. «Ecco perché sentivo un odore strano, per Dio!» disse Macari. «È perché le coperte erano macchiate di sangue. Duval deve essersi fatto una schiavetta e poi averla ammazzata». «Ho uno schiavetto», corresse Levert. «Duval è il flagello dei mozzi imbarcati con lui». Beh, non stettero a indagare sul sesso della vittima e scesero le scale. In strada Lorenzillo sbuffava. «Neanche una donna che si trucca ci avrebbe messo tanto. Venite, si va alla contuderia. Van Horn è là. Se non fosse stato per ordine di De Grammont, non avrei certo perso tempo a cercarvi, Giuda di un diavolo. Van Horn mi piace quanto piaceva l'aceto a Cristo e ai suoi ladroni». Si faceva intanto sera e sotto i porticati di Veracruz molti pirati continuavano a dormire, indifferenti alle cannonate. Altri frugavano le case attorno. Data l'ora, ne uscivano con bottiglie di vino da bere in compagnia. Si respirava aria fetida, fatta aggravare dal calore eccessivo. Dal fortilizio di corallo si continuava a cannoneggiare, ma invano. Il palazzo della Contudaria Oltre la porta e finestre illuminate, le candele stavano per esaurire la cera. Lorenzio indicò la scalinata. Montate quei gradini, Van Horn deve essere là sopra, da qualche parte. Io adesso devo andare, ci vedremo più tardi. Macari e Levert salirono al piano superiore, scoprirono le scheletri, Petru e Big Willy, al lato del velluto di un tendaggio che tenevano scostato. «Qui anche voi!» chiese Petru il corso. «Ci siamo da mezz'ora e passa! Aspettiamo che il capitano Van Horn abbia finito!» La sala dietro le tende aveva abbastanza luce. Due pirati trattenevano Gabriella Gino Vergara per i polsi, col ventre su un tavolino e il seno schiacciato contro il marmo. La gonna era stata sollevata sul suo dorso a scoprire le terga. Van Horn l'aveva presa da dietro e la penetrava con spinte sempre più vigorose. Lo spettacolo, consueto ogni volta che i fratelli della costa occupavano una città spagnola, turbò profondamente Macari. Un conto era che una donna che l'attraeva finisse preda di De Grammont, capo indiscutibile. Un altro conto era che fosse stuprata da un capitano di minore importanza come Van Horn, mediocre soldataccio inferiore persino a Lorenzillo nella gerarchia della tortuga. Ciò che lo sconvolse sul serio fu però il fatto che Donna Gabriella non sembrava soffrire per l'oltraggio. Gemeva, sì, ma i suoi parevano un mugolii di piacere, inaccettabile in una dama onesta anche nell'ambito matrimoniale. Peggio ancora, muoveva le natiche come per assecondare la penetrazione, adattandosi al ritmo. Quando fu soddisfatto, Van Horn si ritrasse e rialzò i pantaloni. Sembrava disgustato. «Mai visto una simile baldracca», brontolò. «Pareva persino godere, mi ha fatto togliere ogni appetito». Si volse verso la porta e notò gli uomini dietro la tenda. «Ah, giusto voi, sta calando sera. L'ammiraglio vuole che appena scese le tenebre, prendiate una barca e andiate a San Juan de Ulua per la missione che sapete. È già tempo di muoversi». Gli avventurieri che avevano trattenuto Gabriella per i polsi l'avevano lasciata. Lei rimase distesa sul tavolo, il sedere scoperto, la vagina in vista. Respirava affannosamente. D'improvviso si rialzò e si mise seduta. Lasciò le gambe aperte a mostrare il pube. «Qualcun altro ne vuole approfittare?» Magari ebbe l'impressione che guardasse proprio lui. «Puttana!» ridisse Van Horn. Sistemò la camicia nelle brache, raccolse la sciabola posata sul tappeto e abbandonò la sala. Smilzo com'era, non aveva proprio l'aria di un conquistatore. La gentildonna volse attorno gli occhi neri, profondi, severi e provocanti. «Allora, chi è il prossimo? Chi intende imitare il suo capo e godere di me?» Tutti quanti uscirono alla spicciolata, magari per primo. Con oggi finisce qui la diretta d'azione, con quest'ultimo paragrafo letto oggi di Vera Cruz, di Valerio Evangelisti. Lo ricordo che la diretta d'azione torna venerdì 6 dicembre con controinformazione e musica, per la lettura lo ricordo è solo il lunedì. Ricordo gli indirizzi utili, radiazione@vistici.org per chi vuole mandare una mail a radiazione. Innanzitutto ringrazio chi già l'ha mandata e diciamo ci hanno fatto i complimenti per la lettura di Vera Cruz dopo le critiche arrivate indirettamente da un altro sito su Valerio Evangelisti, che lo ricordo, dove si leggono i romanzi. Romanzi che bene o male ci possono interessare, quelli che non ci interessano non li leggiamo, quindi andare a fare una critica politica a quello che è Valerio Evangelisti a noi non ci tocca. Allora, radiazione@vistici.org per mandare, come dicevo, ogni tipo di informazione, date di iniziative, date di assemblee, manifestazioni, giornali online, potete mandare attraverso formati PDF o scegliete voi come, in quale formato. Per il blog redazione.noblogs.org, dove trovate tutta la controinformazione aggiornata quotidianamente, quando c'è ovviamente, dove potete riascoltarvi le dirette d'azione, quelle vecchie, e da domani potete riascoltare sia quella di oggi che quella di venerdì scorso, che ricordo non è stata messa perché c'erano un po' di cose e quindi si è evitato, cioè non si è avuto tempo di pubblicarle. Per la radio, radiazione.listentumeradio.com, altrimenti cliccate sul banner di radiazione e vi si accende la radio lunedì e venerdì dalle 17 alle 19. Ora vi lascio con un brano, loro sono Colbat 60, il brano è Bye Bye, ovviamente un saluto e ci risentiamo venerdì prossimo 6 dicembre. informazione, letture, provocazioni, musica.